come ebbe a dire una volta Sigmund Freud al suo discepolo Erik Erikson. Sono le due capacità che segnano il raggiungimento della piena maturità. Se fosse davvero così, la maturità, intesa come traguardo della vita, potrebbe essere in pericolo. E le attuali tendenze mostrate dai tassi di matrimonio e di divorzio farebbero dell'intelligenza emotiva una dote più importante che mai. Si potrebbe osservare che gran parte di questo aumento non è dovuto tanto a una diminuzione di intelligenza emotiva, quanto a una costante erosione delle pressioni sociali che tenevano unite anche coppie pessimamente assortite. Si pensi al marchio di infamia che circondava i divorziati e alla dipendenza economica delle mogli dai loro sporchi mariti. Ma se le pressioni sociali non rappresentano più il cemento che tiene insieme un matrimonio, allora, per la sopravvivenza dell'unione, i vincoli emotivi fra moglie e marito diventano ancora più fondamentali. We'll be right back. Alla follia non badate, datemi retta. Pensate piuttosto ai nuovi ritmi in cui immergere la vostra vita perduta dietro l'apparenza delle cose. Cercate l'immortalità, l'eterna questione del mare splendente dentro il sole di giugno che diventa nero. Il sole di giugno che diventa nero a notte e scompare nelle tenebre. Io, dimenticato relitto di una civiltà passata, sono il solo che piango i defunti miraggi di un'età morta e ancora, coprendomi di ridicolo, scrivo lettere d'amore a traditi amori di un'epoca trascorsa. La giovinezza e ricordo lo studente che piegava la sua retta immagine a misurare l'angolo della sua carnale diversità. A versare nel seno asciutto di una madre occasionale la solitudine futura dei suoi giorni tutti uguali. Lasciatevi andare verso il mare della vita. Assaporatene la musica sbiadita e trionfatore sarà solo il tempo e il suo nero oltraggio. La morte. Mentre io scriverò ancora che il poeta chiude in stremate parole il suo cervello, mirando il muro in alto della sua stanza, e le poesie scivoleranno via senza pietà e nessun dio le registra incarnandosi per un attimo. Il ritmo non sa di mirtillo acerbo e piegarsi sulla bianca pagina di un diario. Il meglio dell'ispirazione fa in un fiato dileguare. Chiamatemi così, pazzo! Deserto testimone di un deserto da percorrere in una torrida estate, senza acqua raccolta nella gobba di un domestico dromedario. E la mia poesia definitela con crudeltà e livore come lubrica. Oscena. Interessata e manigolda, consigliera di sventura, o furto di anime giovanili in cerca di nuove reincarnazioni. Sappiate, però, che brucio di gioia, di allegria feroce dentro la mia casa buia, prigioniero di calamitose idee, slabbrando la mia merda in privata visione, senza lo scempio di immagini e talenti altrui. Sono un genio, geniale che la vita spassa da un dolore all'altro. Teatrale, senza ferite apparenti che non siano d'amore, piaghe purulente lasciate da una donna fatale che nessuno conosce. Slabbro la mia merda in privata visione. Ghirigori collettivi e birbanti. Muratemi in una galera con la Bibbia e i santi. Finalmente, buonasera a tutti, un cupo suono ci accoglie, questa è la fiera di Kaki, non sento più niente adesso, però vedo che mi fanno cenni la regia che è tutto a posto, allora, mi aprire questo mercoledì notte. Se non con la notizia dei Cantuccini. Puntano al conseguimento degli IGP, quindi... Quando andate all'estero chiedete Cantuccini toscani, IGP. Allora, Gianluca, tutto a posto? Ti vedo un po' così sperso. Che cosa è successo? Tienici al corrente delle tue difficoltà tecniche. Le mie difficoltà tecniche riguardano la miriade di microfoni sparsi, cablati per tutta Cascina, che raccolgono i vari segnali dalle zone circostanti, ma non so quali sono i due vostri. Ecco, perfetto. Tu aprili tutti e vedrai che funzionerà. Sì, sì. Faccio come i Subsonica, anzi, come prima i Rolling Stone, con due microfoni. Ma insomma, Moby Dick com'era? Moby Dick era la falena bianca. Cioè, questo, stiamo sperimentando. Se questa battuta vi ha fatto ridere, telefonate allo 050 71 00 71 e dite se volete riascoltarla direttamente negli spettacoli di Zenith. Non rispondono, dire. Non chiamano. Non possiamo, soprattutto... Ma come mai non lo possiamo dire? Chi è che ti ha segnalato a Zenith? Bisignani. Che questo segnalava tutti. Hai visto? C'aveva, era un po' un personaggio così, capito? Ha fatto tardi a scuola, aspetta che chiamo Bisignani. Pronto? Mio figlio ha fatto tardi a scuola, non si preoccupi, adesso chiamo il preside. E sistemava tutto lui, eh. Che so, ascolta, chi è Bisignani? Ora spiegaci un attimo. Allora, so che tu, Gianluca, vivi nel tuo mondo così separato dalle vicende quotidiane. Caro. Sei uno scrittore, un artista, un pittore, un poeta, un analfabeta. Vabbè. Diciamo che questo Bisignani è sulle cronache quotidiane. Ma a te che ha fatto? Ha fatto qualcosa? Ti ha dato fastidio? Ti ha dato noia? Ti ha graffiato la macchina? Non mai sia che io sia accusato di aver fatto qualcosa a questo buon uomo. Cioè buon uomo. Veramente. Comunque questo personaggio, tale Bisignani, pare che avesse addirittura un ufficio presso la presidenza del consiglio, utilizzava la carta intestata pur non avendo nessuna carica pubblica e riceveva telefonate quotidiane dai ministri che si raccomandavano a lui per situazioni che dovevano risolvere. Quindi questa figura esce un po' inquietante nel panorama delle lobby italiane, questa inchiesta sulla P4. Ma quindi no? Hanno lobby di fare queste cose qui. Le lobby, sì. Aveva lobby, interessarsi di appalti e cose varie e segnalare. Addirittura è stato accertato che anche la serata in cui il presidente della RAI telefonò a Michele Santoro in diretta, no? Masi telefonò in diretta a Santoro, subito dopo la telefonata telefonò a Bisignani che gli disse espressamente che aveva fatto una gran figura di merda. Buonasera, benvenuta Chiara. Mi stavo ascoltando dalla macchina. Ci stavi ascoltando. E poi mi è piaciuto così tanto. Sei in diretta comunque, ti volevo sei in diretta. Avvisare. Mi è piaciuto così tanto la trasmissione che ho detto, ma passo direttamente in radio. Ecco, bravi. Allora anche voi, se siete in macchina e siete in zona cascina. E vi piace la trasmissione. Trovate irresistibile questa trasmissione. Ma soprattutto se siete in ambulanza passate a prendere il nostro caro Bernardo. Manda la sirena. Allora, insomma, Bisignani, buon Bisignani a tutti. Buon Bisignani a tutti. Ascoltiamo questo brano del 1412. Ecco, avevo 3 anni. È davvero del 1412? Infatti nel 1400 non c'erano gli strumenti elettrici e questo è suonato elettrico. No, non è vero. Ma scusa. Ma siamo in diretta di nuovo. No, non di nuovo. Ma scusi DJ, no. Mi sembra un po' così a naso e nei pasticci. Sì, no, dicevo, ma c'era la tecnologia adatta, infatti c'era la pubblicità di Leonardo da Vinci col cellulare. E infatti l'aveva inventata, la chitarra elettrica, l'ha inventata Leonardo da Vinci. No, quella l'ha inventata Michelangelo. Ah, Michelangelo. Sì. Era un inventore, io non mi risulta. Michelangelo gli piaceva il violino, diciamo, ecco. Era... E come lo usava? In vari modi. Infatti, ma ascoltiamoci questo brano. Bravo, un applauso al nostro DJ e al brano, che anche stasera brano. È riuscito in modo sensazionale a farci sentire un po' di musica. Light and toss to face. Nothing. and the slow fade up over faithful. Times we close, soon we're left to die. Soon left to die. Depress mode. Ma certo, sta musica è proprio medievale. Medievale, la pena, insomma, di ascoltarla. Che conversazione. No, come siamo? Mamma mia. Finti. E per pensare che ci siamo messi d'accordo. Non sarà capito. È venuta malissimo. Sembrava finta, veramente. No, secondo c'è me. C'è una telefonata, ci abbiamo Celentano in diretta. Lo passiamo? Pronto? No, non lo passiamo, dai. No, Adriano, sono... guarda, non è mica una trasmissione questa, non ti possiamo mettere in diretta, anche perché qui il sindaco l'hanno già fatto, quindi buttiamo giù. Bene, allora a questo punto è morto. Direi di stare tutti zitti. Facciamo un minuto di silenzio. Oppure di accavallare tutte le voci, facciamo il silenzio bianco. Silenzio bianco? Com'è? Che si parla bianco. Tutti insieme. Ah, invece come lo sciopero bianco che si continua a lavorare, quindi noi facciamo, no, il silenzio bianco, cioè, che si continua a parlare. No, è esattamente il contrario del complementare di quello che hai detto. Cioè, è il silenzio bianco, il contrario. Comunque, del rumore bianco. Dicevo, gli alcolici bevili dopo la trasmissione, così ci divertiamo. Ora, che cosa vorresti dire? Che sono vegetariano? Certo. Che non sei mangiato stasera? Farina di un gattino ai cinesi, un pomodoro. Ma se mangi il kebab tre volte al giorno, come fai a essere vegetariano? No, il kebab lo mangio a colazione. Ecco, a colazione. A pranzo in genere vado dall'indiano, e la sera mangio le cose tipiche della Toscana: castagnaccio, il toscanaccio, il toscanello i cantuccini. Cantuccini GP. I cantuccini all'angolo quando c'è il vento. Vabbè, dal punto di vista musicale, invece, che cosa hai ascoltato questa settimana che ti è piaciuto in particolar modo? In questa settimana ho ascoltato parecchio i Justice, questo gruppo. È uno? Justice Timberlake. Ma io c'è qua. No, ascolta, io com'era quel gruppo che erano i Paris Saint-Germain. I Paris Saint-Germain. I Paris Saint-Germain. Saint-Germain. Ma senza Paris. Come è di Paris, ma non si chiama. Io sono il Luca Giurato della musica. Il Luca Giurato dei DJ. Giurato DJ. Oh, sarebbe un nome così interessante. Sarebbe un nome di altri DJ Giurato. Dentro il corpo di Luca Giurato. Da Cocorico. DJ Giurato al Cocorico. Sabato prossimo. Se non hai già un impegno. Se non hai già un impegno. Comunque volevo pubblicizzarmi un attimo, perché venerdì, no, 27, e quindi sarà venerdì. Venerdì è il 27, se lo vuoi pubblicizzare, no. Facciamo. Venerdì è il 24. Il 27 giugno. Questo io venerdì sarà il 27. Questo venerdì verrei. Non mancate. Basta, allora, Gianluca ha scritto un libro. No, non volevo dire, non quello, dire quello, volevo dire un'altra cosa, ma la dirò dopo, perché vorrei. È quello mandare... che pubblicizzi sempre tu. No, ma è vero che ha scritto un libro, in mente, come si la, mente. La mente invisibile. La mente invisibile. Hai partecipato a questo progetto editoriale con Marco Minghetti e altri autori. E se non sbaglio, tu hai messo i numerini alle pagine. Esatto. Qual è stato il tuo ruolo? Il numero 5. Hai fatto le fotocopie? No, ho fatto il numero 5 e basta. Le virgole. Le virgole. Infatti, il libro è molto venduto per il numero 5. Poi 5 ho vergato tutto a mano io. Ho fatto tipo un manoscritto più che. Sì. Allora, che ci fai ascoltare, Bernardo? Ti avevo dato la copertina che continua a tornare. Ma questo alla... tu mi hai dato, Tuxedo Moon, che è questo disco che uscì dopo Cabin in the Sky, se non sbaglio, si chiama Bard Hotel Soundtrack e contiene un po' dei suoni a volte minimali, a volte sono reprise di pezzi, però fatti magari in forma un po' così, un po' psichedelica, non so cosa, non ricordo esattamente, sono 20 tracce, non lo so, ne scelgo una a caso, vabbè, scelgo la numero 6, che si titola I'm Real Stupid, forse è vero. No, non ci sono dubbi. Grazie. Quando le persone vanno in diretta non lo dico, questo è sempre uguale, vabbè, mi piace, ma è un revival questa sera, una vecchia canzone che ha animato Bernardo, spesso questo programma. Abbassare la voce perché non c'è bisogno. Grazie. Di urlare, non c'è bisogno. Volevo di dire che questa canzone mi è sempre molto piaciuta, sono i 24 Grana e Vesto Sempre Uguale. Parla della storia di questo ragazzo, il pomperino di Land Dog, che si veste sempre allo stesso modo perché non è mai cresciuto, e quindi ve la lascio e dedico a tutti i brunetta d'Italia e anche a voi a casa. Ciao. Ma cosa? Che cosa? Cosa lasci? Ma dove domani vai? È il compleanno di mia mamma. Siete la migliore Italia. Auguri a mamma di Chiara. Auguri mamma. Come si chiama? Maria. Mamma Maria, auguri da tutta la compagnia. Come okay, sto sempre uguale. Poesia leggera questa sera qui a Puccio Radio, la terra di cacchi. È uno dei nostri tre ascoltatori. Tre ascoltatori a me, 3 per 1, sono 12. Ma perché ho l'impressione di parlare da solo? Perché ho l'impressione di... Stiamo parlando da soli? Ma secondo me... Da soli. Ecco, mi sembra un po' Amy Winehouse davanti a quel microfono. I capelli. Noi siamo soli. Io credo degli alieni. Non ha mai detto nessuno che assomiglio a Amy Winehouse. C'è un non so se a casa dalla webcam potete vedere se assomiglio. Ma che, cioè, io l'ho detto, cioè, Gianluca, ascolta, questo non è un programma sperimentale, eh? Cioè, è un programma radiofonico serio. Non so se sei pronto con la musica. Vogliamo affettare un po' di prosciutto. Ecco cosa devo fare. Ecco, diceva, c'era una cosa. È come così, siamo nella pista pronti per ballare e il DJ fa, ragazzi, che volete? Metti un pezzo. No, ma aspetta, ora. Un Campari. Non so, sembri Amy Winehouse. I 24 grana. 24 grane tutte per lui. Le dedichiamo. 24 grane e 44 gatti. Dove le grane poi? Dove? Dove? Questa? È questa. Ah. Ritmo, ritmo. Saluti agli alieni. Ma che dobbiamo fare? Ascoltarla così in sottofondo? Cos'è? Una nuova lezione. E dice, mi piace il programma così. Con la musica in sottofondo e noi che spariamo cazzate sopra. Dobbiamo tradurre per il popolo. Pure stamattina veste sempre stessa. Non mi serve niente battagna. Io pace se già fosse caruta. Ma vesto sempre uguale, non sono mai cresciuta. Vesto sempre uguale, non sono mai cresciuta. Thank you. Francesco Di Bella, lo salutiamo, il mitico cantante dei 24 Grana, sicuramente uno dei miei gruppi preferiti che ho qui nel cuore. E che dire, Gianluca, sento sempre questo eco Vatican Style, che non è che mi piace moltissimo, devo essere sincero. E allora, stavamo dicendo appunto di questo faccendiere Bisignani, che adesso l'hanno beccato, quindi cercheranno un altro faccendiere. Non so che, se c'è qualcuno che... Ci sono io. Che ne, ci io sono perfetto. Carlo sei perfetto, perché è l'anello di giunzione, c'ha la mafia, perché la mafia. Così uno ha delle agganci particolari. Tra la politica, poi anche un bello, sembra un po' Al Pacino. Al Pacino. Nel film, quando faceva... Il, sta parlando il con me. Sì, tra Robert De Niro e Al Pacino. Robert De Niro. È bello, abbronzato così. Passeggiate sull'argine. C'è un bel sorriso, c'è il petto villoso. Quello fa sempre che poi. Mostra. Che con mostra onore, così. Con orgoglio. Sì, ostento. Diciamo che queste camicine lo penalizzano un po', secondo me. Però il nero gli dona. Che ne pensi, Gianluca? Cosa gli dona il nero? Gli dona questo aspetto così, il nero mi dona. Un po' così da duro. Io, mi sentite voi? No, ma stiamo bene lo stesso però. Ok. Allora, questo è il programma del mercoledì sera, vi ricordo la Terra dei Cachi. Se volete in qualche modo contattarci potete farlo anche attraverso il sito che è perennemente in costruzione, www.mixu.it. È un sito che non ha mai trovato la luce, è così, è sempre un travaglio continuo, quindi dateci una mano anche voi, magari scrivete qualcosa, se no su Facebook potete trovare Salvatore Canonico, no, oppure anche il gruppo che si chiama La Terra dei Cacchi. Bravo, ma perché ridi? No, riso perché è andato nome e cognome mio così a grado. Perché siamo alla radio, sei uno speaker. Cioè ho potuto trovare Salvatore Canonico La Terra dei Cacchi. Bernardo Cirillo e Chiara Moraglio questa sera qui in diretta. Io darei anche il suo numero di telefono. No, il suo numero di telefono non lo diamo, tanto non lo chiama nessuno. Perché se diamo il suo, poi non lo chiama... È scritto nei bagni. È scritto nei bagni. Può essere che qualcuno lo chiami. In quali? Quello degli uomini, ovviamente. Ovviamente. Dai, Gianluca, prego. È inutile che te lo scrivi il numero di caos, te lo do io dopo, dai. It's an idea someday, in my tears, my dreams. Don't you want to see a proof? Life that comes does no harm. You and I, you and I. Like the cops, there's no harm.

tratto appunto da Sono la piaga e il coltello. Di che è questo bel libro? È una raccolta. Teresa Lori, una raccolta, Felici Editore. Abbiamo ereditato. Siamo giunti finalmente alla fine, perché stasera non se ne poteva più di fare questa. No, davvero, proprio una trasmissione svogliata. Mamma mia. A casa se ne saranno sicuramente accorti. No, ma c'è qualcuno che ci scrive bestemmiando, non ho capito perché. Ah, c'era qualcuno che bestemmiava. Ma di brutto. Noi non ripetiamole, abbiamo già avuto un precedente. Gianluca, tutto a posto? Ti vedo un po' così. Ma no, vedevo qui questo Bula che potrebbe andarsene a quel paese, insomma. Ma secondo me ho dei sospetti, su chi sia. Ma io lo so chi è. Bula, scrivici il numero di telefono che ti chiamiamo, così ti mettiamo in diretta e ci potrai offendere liberamente. Il Bula, abbiamo capito. Ha detto è andato a cacare. Falla tutta. Ma magari ti serve la carta. No, ragazzi. No, non so, siamo un po' in un impasse radiofonico, non so. No, non è un impasse, ma andiamo l'ultimo brano, salutiamo l'ultimo brano. E ci risentiremo, se ne avremo voglia, non lo so, mercoledì prossimo. Sicuramente con una line-up più accessoriata. Questa sera grande ritorno di Luca in console, si è visto. Era una battuta, no. No, era una constatazione. Sì. Amichevole. Mamma, come siamo inaciditi nel frangente di questa impasse. Ti serve la carta, ma non lo so. No, non ci comunque risparmio. Ragazzi, io vi auguro una buona notte, a voi non c'è un cazzo da fare in tutta la vostra vita. Come il pirlone più che altro. E ci vediamo mercoledì prossimo, ci sentiamo mercoledì prossimo. Salvo atterraggio di alieni o di inondazioni oppure di dichiarazione dell'omosessualità da parte del Papa Ratzinger, che dichiarerà apertamente di amare che peccato, padre, ma che c'era tanto ciliegina sulla torta per chiudere la io ero innamorata di lui adesso. Ma no, ma lui sta con proprio che è Orga. Ma che peccato non lo sapevi? No. E adesso no. Tristezza. Ma infatti Ratzinger torna qui in radio, ti aspettiamo. Torna da me, ti prego. Facciamogli un'intervista. Sì, radiofonica, in tedesco. Quale domanda gli vorresti se porre? Ti passo il numero di Ruini, perché lui, non so, vabbè, no, manco a lui gli piacciono molto le donne. Non so, se ti vesti da bambina di 2-3 anni, penso che hai buone probabilità di. No, ma a me piaceva Ratzinger. Era proprio innamorata di lui. Cioè, con quello sguardo. Sì, infatti, è proprio. È qualcosa che ti lascia un segno nel profondo. Tipo un marchio degli esorcisti, sai? Zà, così. Sì, infatti era una sensazione, insomma. Parlare di Ratzinger ci ha ravvivato. Tra poco Rockabilly Rap, con buona probabilità. L'unica trasmissione seria dopo la nostra. La trasmissione malata. Noi facciamo un po' da filtro, ecco, purifichiamo. Da cuscinetto. Sì, purifichiamo l'aria dalle negatività, assorbiamo tutte le negatività per permettere a questo aerosol apotropaico di rinfrescare l'aria, diciamo. E questo, che non è manco un aereo. Che poi si chiama climatizzatore. Che poi, alla fine. Ma infatti da Pisa, dall'aeroporto di Pisa, partiranno gli aerei per i malati di gola, stanno gli aerosol appunto. Questa la segno. Ok, dopo quest'ultima cazzata del nostro DJ Gianluca. Salutiamo Gianluca, le falene, la musica Radio medievale. Vi saluta. E la mia mamma, il suo compleanno. Ci vediamo nella Terra di Cachi mercoledì prossimo. Un saluto da Lady Garrapa. Che mi raccomando, su noi. Facebook, la Terra di Cachi. E Salvatore Canonico. Suggeriteci i vostri brani preferiti, che non li metteremo. Assolutamente. Okay. Ciao. E dopo questa direi che ciao, anche se non credo di poter concludere. Con Manitoba. I Manitoba, che non è una farina, no, ma non è nemmeno un farinaceo, un farino. Ecco, sono arrivati loro, mandiamo i Manitoba. Buonanotte a tutti, siete stati grandi, buona Pasqua, buon Ferragosto e viva Papa Ratzinger. Rock and roll, ciao.